Eccoci con l'appuntamento con il cinema Visionari il giovedì su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Per sostenerla potete contribuire con una sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56 00985, Roma, oppure sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. sull'home page c'è sostieni per la modalità PayPal. Diamo inizio ai collegamenti. Per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi e tutte le informazioni sulla trasmissione, potete consultare il sito La Voce Trasmissioni Visionari sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E cominciamo subito con parlando di un lavoro che sarà presentato domani 29 maggio al Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro. Si tratta del documentario Il Fattore Umano. Ne parliamo con il co-regista Francesco Rossi. Francesco, ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, permettimi di fare i complimenti per le due trasmissioni che porti avanti, te lo dico da ascoltatore di Radio Onda Rossa. Ah, che bello. Grazie a tutti e a tutti per essere all'ascolto e niente, dimmi, parliamo del fattore umano? Il fattore umano, perché parla di un pezzo importante del cosiddetto movimento antagonista dagli anni 70 ad oggi. Perché, Francesco? Spieghiamolo. Perché il fattore umano parla di un personaggio che per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa non ha bisogno di presentazioni, che è appunto il fotografo Tano D'Amico. Tano D'Amico, che tutti conoscono appunto per le sue fotografie, le sue bellissime fotografie, in realtà l'idea di fare il documentario sia a me che a Matteo ci è venuta nel momento in cui ci siamo imbattuti nell'altro Tano, cioè il Tano scrittore. Sì, il sì. Tano scrittore, perché ha pubblicato Perché Tano ha pubblicato due libri negli ultimi due anni, e adesso ne sta scrivendo un altro, ne sta per pubblicare un altro. I primi due, dai quali poi sono stati estrapolati i testi che fanno parte del documentario, sono Di cosa sono fatti i ricordi e Anima e memoria, tutte e due editi da Postcard. E praticamente la scrittura poetica di Tano è così bella ed evocativa che ci ha spinto poi appunto a usarla come ossatura del documentario, ovviamente tutto intorno alle sue fotografie e in questi suoi racconti di vita vissuta fondamentalmente nelle manifestazioni negli anni 70, che poi arrivano fino a oggi, insomma. Sì, sì. Oh, Francesco, in parte l'hai spiegato, nel senso è un racconto per immagini legate anche a dei testi presi dal libro di Tano, però ci sono anche delle interviste. Ci sono molte interviste, ben 14 interviste. E chi sono queste persone intervistate? Sono praticamente è il mondo di Tano, nel senso che abbiamo intervistato dai giornalisti a Vauro, per esempio, che diciamo forse è il personaggio più famoso, no? È conosciuto. Sì. E Vauro, per esempio, ha condiviso con Tano molte esperienze in Palestina, a Gaza. Da Vauro, come ai movimenti di lotta per la casa, a giornalisti, a scrittori, a militanti, tutti coloro che si sono imbattuti, sono il mondo di Tano, diciamo. Sì, sì, sì. E ognuno di loro ha dato appunto il contributo, chi un aneddoto, chi un punto di vista diverso, che troppo spesso manca nelle rappresentazioni anche cinematografiche. Sì. E gli ambiti nei quali Tano si è mosso e si continua a muovere sono alcuni specifici molto importanti e determinanti, soprattutto per questa città, ossia il movimento di lotta per la casa, le carceri, i migranti, gli operai. Esattamente, esattamente. E nel nostro documentario la cosa interessante è che noi avevamo, diciamo, due filoni, sì, che volevamo, sì, due obiettivi che volevamo raggiungere. Uno è quello che ovviamente l'approvazione da parte di Tano, no? Perché fare un documentario sulla vita di sulla vita e le opere di una persona che è ancora in vita non è facile, certo, te lo assicuro, certo, perché hai magari da lavorare per 3 anni e poi dopo c'è il rischio che non piaccia la persona e magari devi rifare tutto da capo, sì. E mentre l'altra parte che noi non volevamo deludere è appunto tutta questa parte fatta di movimenti, di persone in lotta che continuano a combattere, a scendere in strada, a occupare le case e a far valere i propri diritti, e loro ci stanno dando, come anche Tano ci ha dato, perché l'approvazione poi è arrivata di Tano, perché ci ha detto che piace, gli piace tantissimo e che ogni volta che lui lo viene chiamato appunto a fare un workshop in giro per l'Italia porta con sé il documentario da far vedere alla gente. Bene, l'altra approvazione appunto viene da tutte queste realtà che fanno parte del mondo di Tano e che ci stanno chiamando continuamente da tutte le parti d'Italia, stiamo parlando dei centri sociali, dei spazi sociali, per fare proiezioni. Veramente questo era il nostro obiettivo, l'approvazione da parte di Tano e di quel mondo di cui Tano fa parte, sì, sì, e di cui faccio parte anch'io fondamentalmente, però vabbè. Questo è importante comunque per l'occhio che hai e la mano che hai messo nel tuo lavoro, chiaramente. Senti Francesco, per quanto riguarda la distribuzione, mi dicevi insomma che siete ancora al lavoro su questo, vi chiamano da tanti spazi sociali in giro per l'Italia. A questo punto lasciamo i riferimenti internet per chi volesse saperne di più. Allora, c'è una pagina Facebook, Il Fattore Umano, dove ci sono 2 piccoli estratti e ci sono soprattutto i contatti sia il mio che di Matteo, l'altro regista, e potete mettere appunto mi piace come si fa adesso. E poi che altro? Poi possiamo ovviamente invitarvi domani al CSO Ricomincio dal Faro alle ore 19:30, ingresso libero a Via del Trullo, dove ci sarà appunto la proiezione del documentario con una presentazione prima e un ricordo voluto fare all'ultimo minuto per Claudio Caligari, che ci ha lasciato in questi giorni. Sì, sì, e sì. Ci sarà appunto questo ricordo. E poi, se posso permettermi, sabato ci sarà la proiezione all'Aquila, a Case Matte all'Aquila. Ah, che bello. Alle ore 17, bene, 18. Bene, bene. Allora Francesco, un po' di dati li hai dati. Mi fa piacere averti sentito nuovamente. A questo punto ci diamo appuntamento per le prossime novità. Va bene, io spero che all'ascolto ci sia un'anima pia che magari vuole fare la distribuzione del nostro documentario, che siamo totalmente autodidatti, autoprodotti, e poi voglio cogliere l'occasione per ringraziare te Federico, perché sei stato forse la primissima persona che, una volta terminato il documentario, noi tenevamo proprio a fartelo vedere, e questo per me è stato un fattore di grande emozione e ne sono molto contento. Adesso non l'avevamo detto, però in realtà la prima persona che io personalmente, essendo ascoltatore di Radio Città Aperta, reputo forse la più adatta ad un giudizio esterno sei stata tu, e quindi e quindi sono contento di questo e diciamolo, dai. Va bene, va bene. Un abbraccio e a presto, Francesco. Grazie Federico, un saluto a tutti e a tutti. Eccoci con Tino Franco, il regista Tino Franco, per parlare dell'incontro con il montatore Marco Spoletini all'interno di Behind the Clapperboard, il cinema raccontato da chi fa il cinema, che si terrà qui a Roma nel Blue Studios domani, venerdì 29 maggio. Tino, ben ritrovato dopo un po' di tempo. Ciao Federico. Come va? Meglio, tutto a posto. Okay. Diciamo che ci siamo imbarcati in quest'altra avventura e abbiamo aperto una nuova sede, sì, di questa associazione culturale nel Blue Studios, che è, diciamo, strategicamente collocata dietro il Teatro Le Vittorie, dietro Piazza Mazzini. Sì. Quindi l'intenzione è quella di farci proprio un posto operativo dove lavorare, girare, confrontare idee, saperi, insomma tutto quello che è stata sempre la passione mia e delle persone con le quali faccio da anni le cose. Insomma. Bene. Oh. E quindi tra queste varie idee, perché poi ce ne abbiamo tante in ballo, produzione, diciamo, un luogo anche dove appunto vedere cose che hanno difficoltà a essere distribuite. Sì. E questo è sempre stato, ti ricordi, anche con Piramide Channel, sì, quello che, sì, sì, che abbiamo fatto sempre con Alberto D'Amico, col quale comunque continuiamo a collaborare a Piramide per l'attività culturale. Sì. L'idea è quella di proiettarsi leggermente più verso l'ambito professionale, cioè dare degli strumenti anche a chi si affaccia al fare cinema, a fare documentario, a fare televisione, insomma, nella maniera più professionale e quindi secondo me anche più sana di questo lavoro, insomma. Sì. Che è una cosa che si va un po' perdendo secondo noi. Sì. Senti, e poi ti parlo un po' meglio di quello che è il progetto, questo, insomma, questo di Behind the Clapboard. Sì, sì, sì, sì, sì, dai. Allora, vabbè, l'idea nasce da questa cosa, cioè fondamentalmente io mi sono accorto, io ho quasi 50 anni ormai e lavoro da 25 anni, ho avuto la possibilità di partecipare, di essere presente in set importanti e quindi mi sono formato come chiunque si approccia professionalmente a questo lavoro, con dei maestri, con dei set che adesso è sempre più difficile frequentare. Sì. Quindi l'idea era quella di mettere in contatto diciamo proprio i reparti, nel senso dallo scenografo, dal costumista, dal capo macchinista al capo elettricista, in un'idea molto, molto di scambio di esperienze, insomma, la persona che magari aveva potuto lavorare su set importanti e che trasmetteva questa esperienza a chiunque, insomma, chiunque vuole interessarsi di questo lavoro, visto proprio come un mestiere, insomma, ecco perché ci teniamo a questa cosa. Che si racconta proprio il mestiere, e dentro quello però c'è anche appunto lo scambio di esperienze, insomma è un argomento a me caro, perché io mi sono accorto che oggi l'opportunità di accedere facilmente ai mezzi di produzione ormai è scontata, cioè il digitale ci dà moto col telefonino di girare e quindi abbiamo la possibilità di montare col computer di casa. Sì, insomma, sì, abbiamo, sì, una totale accesso ai sistemi di produzione, però ci manca l'esperienza. Dico ci perché, voglio dire, mi metto in mezzo ancora da filmmaker a questo meccanismo qua, cioè la difficoltà di fare un'esperienza vera di set. Ecco, l'idea è invitare proprio i capi reparto, in questo caso domani vediamo Marco Spoletini, che è il montatore di Garlone e della Rovacher e di altri film importanti, che è un amico con il quale abbiamo condiviso Moiole e abbiamo montato insieme nel passato, eccetera, e che viene a raccontarci questa esperienza grande, perché è un film comunque importante quello che ha fatto Matteo. Un piccolo aneddoto, Tino. Sono andato poi all'anteprima stampa del Racconto dei racconti e all'ingresso, quando ci si segna con gli uffici stampa, e si è presentato lui, stava in fila insieme a me dicendo: il film l'ho montato io, e quindi era venuto a vederlo, insomma. No, ma poi quello che capisci di queste persone, a parte lui è un amico come tanti che verranno, però anche delle persone, insomma, io nella mia piccola esperienza personale posso dirti che di solito più sono bravi, importanti, eccetera, e più sono umili. perché conoscono bene questo lavoro e sanno che questo lavoro è fatto di sudore, di passione. Riconoscono, se uno parla insomma in maniera diretta e sincera, l'entusiasmo. Questo lavoro non si fa per, almeno una volta forse sì, ma ormai non si fa né per ritorni economici né per, ma si fa veramente perché uno ci mette il cuore, insomma. E Marco è uno così, ma come altri che allora insomma l'idea è questa, e devo dire che c'ha un certo riscontro, nel senso che chiunque ne parlo, guarda, siamo riusciti ad avere anche un parrocinio dal primo municipio, sì, e anche un piccolo sponsor, quindi penso che se le persone rispondono così tanto, cioè forse c'è fame di sapere, ma di sapere di set, dietro le quinte, di come si fanno le cose, di come si lavora con le cantinelle, con le gelatine, insomma, questa cosa che poi è il pane di questo lavoro. Io te lo dico perché insomma l'ho vissuto e so quanto possono essere preziose queste esperienze. Tino, ha una cadenza regolare questo appuntamento? Allora noi cerchiamo, calcola che è sempre fatto tutto nell'entusiasmo e nella disponibilità delle persone che verranno. Tra l'altro io sto cercando, me lo spendo adesso come nome, ma farò di tutto per avere Milena Canonero a un prossimo incontro, okay, che ha preso il quarto Oscar e che è quella che ha disegnato i costumi per Arancia Meccanica, non so se sì. Non so se rendo l'idea. Ecco. Senti Tino, vai. Niente, diciamo che fondamentalmente siccome si basa tutto sulle energie dell'associazione, cerchiamo di fare una cadenza mensile almeno, okay, e abbiamo già un primo evento che è stato il mese scorso con Dario Cioni, che ha fatto il secondo aiuto su episodio 1 di Guerre Stellari, però ha lavorato recentemente anche con Wes Anderson, quindi ha delle cose da raccontare. Andiamo a cercare anche dei personaggi un po' prestigiosi che hanno fatto esperienza su set importanti, sì, per cui sì, quello che vanno a raccontare può essere di largo interesse, diciamo, okay, questo è un po' l'idea. Senti, mentre nel frattempo ti anticipo, però magari questo necessiterà di un altro, avremo modo di riparlarne, certo, che siamo ufficialmente partner del Fanta Festival quest'anno. Ah, okay. E quindi organizziamo degli incontri un po' più di accademia sul legame tra la letteratura fantastica e la produzione cinematografica, televisiva, fumettistica del fantastico, e poi forse c'è un'idea anche di gestione di un'arena di Roma, ma ripeto, tutto questo è da vedere, è tutto da verificare. Senti, sì, a questo punto ci lasci nuovamente tutti i riferimenti per saperne di più. Sì, perché poi mi dimentico sempre di dirteli come al solito. Comunque, allora, l'appuntamento è domani, venerdì 29 maggio, con Marco Spoletini, che ha montato fra le altre cose Gomorra, Le Meraviglie, Il Racconto dei Racconti. Cominciamo alle 18:15, per essere, l'ingresso è libero, è a via Montello numero 2, che è dietro proprio piazza Mazzini ed è raggiungibilissima da autobus, metro, eccetera. E niente, l'aspettiamo, questa è l'idea. Benissimo. Naturalmente c'è anche un sito Facebook, ormai non puoi non averlo. C'è un sito internet dell'associazione che è nelbluestudios.com, e ti anticipo tra le altre cose che il 16 giugno facciamo una cosa di Piramide Channel dello studio Campobario da noi, cioè cerchiamo di fare rete con le associazioni eccetera, e quindi il 16 giugno proietteremo video arte, 20 artisti che si esprimono attraverso il video. Beh, tutte idee che si mettono a compimento. Guarda, ce n'abbiamo una valanga, ci mancano solo i soldi. Un abbraccio Tino, a presto. Grazie Federico. Ciao. Ciao. Questo era Tino Franco per parlare dell'incontro con il montatore Marco Spoletini a Behind the Clapperboard, il cinema raccontato da chi fa cinema. Tutto questo nel Blue Studios qui a Roma domani 29 maggio. Ed eccoci con Cristina Piccino per raccontare la serata Racconti dal Vero al Piccolo Apollo qui a Roma, oggi, stasera, giovedì 28 maggio. Cristina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao. Allora, ci sarà un incontro abbastanza ricco, perché ci sarà la presentazione di un libro e anche di due filmati, giusto? Sì, esatto. È anche un'occasione abbastanza speciale per vedere questi film che non hanno avuto possibilità di circolare tantissimo. Sì. Uno si chiama Maledetta Mia ed è un film di Vilma Labate, una serie di interviste a dei ragazzi, rapper, poeti, anarchici, che lei cerca un po' di far raccontare la loro esperienza, la loro vita, e c'è anche molto bello questa sorta un po' di conflitto, lo mettiamo tra virgolette, conflitto che nasce dalla naturale diffidenza dei ragazzi a raccontarsi, ma al tempo stesso anche dalla voglia che hanno invece di raccontarsi. Sì. L'altro film è Bella Ciao ed è stato realizzato durante le giornate del Social Forum di Genova nel 2001 e da Roberto Torelli, Marco Giusti e Carlo Freccero. In realtà loro sono i registi e coloro che hanno montato le immagini, ma a realizzare il film sono stati anche i tantissimi operatori, sia Rai, soprattutto della sede Rai di Genova, e sia delle produzioni indipendenti come Indie Media. Ed è un film veramente molto potente, un film che tra l'altro ha avuto una storia anche estremamente contrastata, perché è stato invitato al Festival di Cannes dell'anno successivo come evento speciale alla Semaine de la Critique, quindi siamo nel 2002. Sì. Ma la Rai, nonostante le molte richieste dai festival internazionali e nonostante il successo enorme che ha avuto il film a quella proiezione, applausi, standing ovation, la Rai non ne ha mai permesso la circolazione, neanche appunto nel circuito internazionale dei festival. E anche perché quel film racconta veramente senza censure le giornate di Genova, e lo fa in un modo molto netto, cioè affidando alle immagini un po' la verità di quei giorni, la violenza e la macchina repressiva che è stata messa in atto sì, dalla politica insomma italiana in quell'occasione. Allora, oltre ai due lavori in video, ci sarà un momento di incontro e di dibattito, vero Cristina? Sì, certo, perché questa sera saranno presenti sia Roberto Torelli, che Carlo Prestero, che Marco Giusti, che Vilma Labate, a cui si deve un po', anzi, a cui si deve moltissimo l'organizzazione di questa iniziativa, che è nata un po' riflettendo durante i giorni appunto degli ennesimi processi contro le violenze di Genova, che hanno riconosciuto il reato di tortura per quello che è accaduto a Bolzaneto e alla Diaz. Ecco, in quei giorni si è detto, beh, però Genova, rispetto a raccontare la violenza del contro repressiva, è stato un momento veramente di passaggio e di grande rottura, nel senso che per la prima volta quelle giornate sono state testimoniate, hanno prodotto tantissime immagini. Sì, a Genova c'erano migliaia di telecamere, più o meno istituzionali appunto, no? Sì. Nel senso che la Rai, che si è detto, e le produzioni indipendenti di cui si diceva prima, ma anche tantissimi registi italiani che si erano dati appuntamento a Genova per filmare. Ci sono stati diversi progetti di film collettivi che poi hanno preso appunto indirizzi più o meno diversi, più o meno riusciti. Insomma, è stata veramente, o semplicemente le persone che stavano in piazza filmavano, si filmava con le telecamerine, con i telefonini, sì, sì, no? Sì, sì. È stata veramente rispetto appunto agli anni passati, è un momento di grande rottura nel documentare in diretta quello che stava accadendo. Dunque non è il problema della mancanza di immagini che si pone, ma appunto come queste immagini vengono utilizzate, come sì, sono state utilizzate all'epoca, come hanno continuato a essere utilizzate o non utilizzate negli anni successivi. Ed è proprio uno dei punti di forza del film di cui si parlava, di Bella Ciao, no? Sì, sì, perché sì, sì, in fondo in quei giorni la Rai, all'epoca si era al governo Berlusconi, ha mandato in onda soltanto parzialmente, ovviamente, quello che serviva a sostenere un certo tipo di discorso, cioè il discorso dei black bloc, della violenza, delle aggressioni, della città messa a ferro e fuoco e via dicendo, cioè questo tipo di retorica, no, che serviva in qualche modo a giustificare quanto era accaduto. Certamente non ha mandato in onda le immagini della Diaz, i racconti delle persone che sono state picchiate, massacrate, sì, che hanno avuto dei traumi fisici, sì, che sono rimasti per molti anche indelebili, ma soprattutto psicologici, no? Sì, delle ferite, sì, sì, sì, terribili, subire quella tortura prima, dopo, durante, feriti, inermi, senza avere possibilità di avvertire nessuno. Ecco, allora, laddove per esempio un film come Diaz di Daniele Vicari riempie narrativamente l'assenza d'immagine, no? È chiaro che dentro la Bolzaneto non si poteva riprendere, però ci sono anche tante immagini che invece quella violenza la mostrano, quindi il punto vero è come poi utilizzarle, come farle venire fuori, sì, no? Sì, sì. E questa, insomma, è una riflessione importante su Genova, che è comunque un pezzo della nostra storia, nostra intendo storia contemporanea, storia di questo paese, ma anche poi tante altre cose. Sì. Ecco Cristina, ho davanti il comunicato, ero stato tratto in errore dalla presentazione degli interventi, perché ci sarà Giulio Laurenti, autore del romanzo La madre dell'uovo, quindi non è non c'è la presentazione di un libro, ma c'è lui in quanto autore di questo romanzo. Ah sì, esatto. Infatti okay, io ero un po' rimasta perplessa, poi la linea è caduta, la okay, mia perplessità così si è persa nell'etere. Ricordiamo allora l'appuntamento al Piccolo Apollo, Centro Aggregativo Apollo 11, all'Itis Galilei, via Bixio 80B, all'angolo via Conteverde qui a Roma, a partire dalle 20:15. Cristina, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a voi, grazie tante e accorrete numerosi, come bene si dice. Grazie, ciao, ciao, alla prossima, ciao, ciao. Con noi Roberto Minervini, regista del documentario Louisiana, The Other Side, in uscita in sala oggi, giovedì 28 maggio. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, intanto è un piacere e volevo anche dirti che mi hanno parlato dell'incontro che hai avuto all'Apollo 11, e mi hanno parlato molto bene, hai parlato del tuo modo di fare cinema. E, si trattava di uno dei tuoi primi lavori, The Passage, del 2011, e parliamo adesso invece di Louisiana, che se non sbaglio ha avuto origine da un tuo lavoro precedente comunque. Sì, i film sono tutti tra loro, i miei quattro film, The Passenger e primo, sono tutti tra loro collegati, i personaggi si ripetono, appaiono, trovano nuova vita in altri film. In questo caso mi sposto dal Texas alla Louisiana, però mi sposto e lavoro con famiglie d'origine di molti dei personaggi visti sia in Stop the Funding Act che in Low Tide, che era il mio secondo film. Senti, un'America dei poveri, degli esclusi, tra tossicodipendenza, alcolismo, ma anche vincoli inusitati di solidarietà. Sì, un'America dei poveri che come tutti sappiamo, l'America dei poveri è grande, è popolosa tanto come la Spagna, parliamo di 40 milioni di poveri. Un'America che io non vado solo a ritrarre, ma è l'America dove vivo. Io vivo nel Texas, quindi le persone e i luoghi che frequento sono persone e luoghi che frequento nella mia vita, e quindi li ritraggo, ritraggo la loro umanità, perché quell'umanità esiste. Riesco a ritrarli in modo molto intimo, perché c'è la voglia da parte loro e anche da parte mia di ritrarre le difficoltà, ma anche il bello della loro vita, dei loro corpi. Quindi il film insomma che senza censure. Sì. Senti, sono stati personaggi che tu hai scelto e ti sei andato a cercare, o sono stati frutto di incontri casuali o meno? Personaggi, le storie raccontate, io sono personaggi, come dicevo, i personaggi principali sono imparentati con i personaggi con i quali avevo già lavorato, e loro sono stati la chiave d'accesso in questo mondo. I personaggi poi li ho scelti girando, sì, le storie da raccontare le ho scelte, sì, di man mano che si svolgevano le riprese per 5 mesi nell'arco di un anno ho girato 5 mesi e le storie ho raccontato, ho documentato tante storie e poi ne ho scelte alcune per la versione finale del film. Senti, una grande, comunque, mesi in cui poi è nata una grande familiarità, ci sono protagonisti che si drogano davanti alla telecamera, fanno l'amore davanti alla la telecamera. Ma per loro c'era un'esigenza da parte mia e da parte loro, questi sono persone intelligenti, sì, ne abbiamo parlato, era necessario anche da parte mia, abbiamo giocato a scarte scoperte, ci siamo detti se dobbiamo fare un lavoro del genere così profondo, così intenso, bisogna che siamo insieme in qualsiasi momento. Abbiamo parlato dei limiti di questa convivenza e di limiti ce ne sono stati ovviamente, ma i limiti non riguardavano la loro corporalità, la loro sessualità e anche la mutilazione del corpo, perché insomma il loro modo di fare, di usare, abusare della droga è mutilante per certi aspetti. Ce ne sono stati altri, però il modo di ritrarli, anche di ritrarli la loro sessualità, era un modo per sentirsi belli, per sentirsi visti. Quando si è invisibili, l'essere ritratti, ripresi da una telecamera, quando si fa l'amore in modo non esplicito, tra l'altro, in modo, penso sia con senso del bello, beh, è un qualcosa di molto poetico, è un qualcosa di molto bello e non è voyeuristico. C'era una loro forte volontà anche di essere finalmente ritratti con dignità, con bellezza. Sì, sì, sì. Senti, dicevi, ecco, dell'invisibilità che comunque ha una sua carica vitale. Ma certamente l'invisibilità è un'invisibilità politica, sì, e qui lo sappiamo tutti, questo è l'invisibilità insomma, esiste per esempio la metanfetamina, il parlare di metanfetamina è un discorso politico, la metanfetamina è una droga politica che è proliferata durante l'amministrazione Reagan. Per questo ho scelto di traparlare per andare nella terra della metanfetamina, quella dei paramilitari, la tolleranza che c'è stata nei confronti dei paramilitari, delle varie milizie americane, è una tolleranza che ha radici anche nella politica, diciamo così, nell'outsourcing della guerra che l'America ha fatto. L'America ha fatto più guerre in outsourcing che non per via diretta, no? Sì. Le guerre nel Centro America sono tutte fatte in outsourcing. Quindi il proliferare dei paramilitari è qualcosa di tollerato dal governo, quindi c'è qualcosa di politico in quello. Che poi tutto ciò, come la metanfetamina e l'azione dei paramilitari, si riversi addosso all'America, è la conseguenza poi dell'aver reso queste realtà invisibili quando sono diventate scomode. Certo, certo. Roberto, allora, da oggi nelle sale, in quante copie esce il tuo documentario? Mi hanno detto che esce in 25 città, per me già è un grande trionfo, e comunque ringrazio la Lucky Red e i miei produttori italiani, perché ci stanno veramente credendo in questo film. È bellissimo vedere come la gente ci creda qui in Italia, dove tutto è partito, perché io sono partito da qua, sono andato a raccontare, a vivere prima e poi a raccontare storie dappertutto, ma sono partito da qua. Bene, allora a questo punto ci dai anche i tuoi riferimenti internet per saperne di più sui tuoi lavori, sulla tua attività? Io sono anch'io un po' invisibile, non ho Facebook, non ho Twitter, non ho niente, vi darei pure un indirizzo email, però mi consigliano di non farlo per radio, certo. Però purtroppo non sono, però esisto anche io via internet, okay, magari okay. Tutti voi potreste anche contattare i personaggi, sì, sono vivi, esistono su Facebook e sanno, insomma, li frequento, quindi raggiungete, parlate con i personaggi del film e poi attraverso loro parlate con me. Bene Roberto, è stato un piacere e speriamo a presto. Certo, spero anch'io a presto, grazie. Un abbraccio, ciao. A voi, ciao. Roberto Minervini, regista del documentario Louisiana, The Other Side, in uscita in sala oggi giovedì 28 maggio. E benvenuta Cristiana Mainardi, produttrice del documentario collettivo Milano 2015. Ciao Cristiana. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, un piacere averti con noi per parlare di questo, come dicevo appunto, documentario collettivo, ma anche sul progetto Filmami, che vede coinvolto chiunque voglia spedire immagini sulla sua visione di Milano dal primo al 7 giugno. Queste sono le scadenze di Filmami. Ma parlacene tu, Cristiana. Esattamente, diciamo che chiediamo a tutti i milanesi, a tutte le persone di passaggio da Milano, di raccontarci il loro punto di vista sulla città in un video di 90 secondi non montato, originale, che poi noi con tutta la squadra dei montatori del film Milano 2015 visioneremo insieme per ricavarne il settimo capitolo di questo affresco collettivo. Un affresco collettivo che vede coinvolti nomi che noi consideriamo prestigiosi. C'è per esempio Giorgio Diritti, che ricordo è stato il primo e unico dei premi che abbiamo dato come trasmissione per il vento fa il suo giro qui a Visionari. Però ci sono anche altri nomi, vero Cristiana? Certo, c'è, come dicevi bene, Giorgio, che in qualche modo riprende questa citazione olmiana, perché Milano 2015 si ispira anche a Milano 83 di Ermanno Olmi, che fu girato chiaramente in quegli anni della Milano da bere e oggi la città è molto cambiata. C'è il milanese Silvio Soldini, c'è un altro documentarista importante che è Walter Veltroni, e poi ci sono tre esordienti proprio nell'ottica di raccontare più punti di vista, però persone e personaggi molto importanti nel loro ambito: Elio di Elio le storie tese, Roberto Bolle, Tual della Scala e l'attrice Cristiana Capotondi. Il progetto da dove nasce, Cristiana? Ma il progetto nasce proprio nell'ambito di Lumière Film, produzione milanese cinematografica anche di Diritti e di Soldini, e proprio rispetto al fatto di aver rivisto nel 2013, recuperato a Milano al San Fedele, quella famosa Milano 83 di Ermanno Olmi. 30 anni dopo ci siamo accorti che Olmi stava dicendo nel 2013 una cosa importantissima per noi, cioè Milano grande civitas, e questa voglia di recuperare il senso della comunità, e da lì è nata l'idea di raccontarla a più mani e quindi anche di coinvolgere tutte le persone che vivono questa città, per noi oggi chiaramente in una fase storica ben precisa e molto importante, e di tenere veramente in considerazione il punto di vista di tutti. E quindi con grande curiosità ci apprestiamo a lanciare tutta la settimana di video per i cittadini. Senti, invece, per quanto riguarda l'opera dei registi che hai citato, ci sono state delle indicazioni dei tempi in cui devono rientrare con il loro lavoro? Abbiamo iniziato a lavorarci tanto tempo fa, perché chiaramente questo è un film dal vero, quindi abbiamo fatto delle riunioni insieme, abbiamo capito quale poteva essere la sensibilità dei sei autori, la voglia di raccontare che cosa, quindi si sono lungamente confrontati su questo tema, okay. E poi abbiamo, come dire, individuato questa ideale scansione della città dall'underground al ground allo sky. E quindi ci sono storie che percorrono dal sottosuolo fino al cielo questa interpretazione di città, che chiaramente non è esaustiva perché Milano ha mille anime, e noi lì ne raccontiamo una parte e speriamo che con Filmami possano essere rappresentate tutte le altre. Ecco, proprio a questo proposito, ci ricordi gli estremi per partecipare? Allora, dall'1 al 7 giugno, con dei video che possono essere girati in quella settimana ma che possono appartenere anche al passato di Milano, quindi assolutamente qualsiasi tipo di contributo per noi è importante, basta andare sul sito www.filmami.eu e lì sarà possibile compilare un facilissimo form di adesione all'iniziativa e poi uploadare il video. Cristiana, ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo poi per grazie l'uscita. Benissimo, a presto. A allora, presto. Grazie mille, buona Ciao. Giornata a tutti. Ciao. Cristiana Mainardi, produttrice del documentario collettivo Milano 2015. Con noi Lydia B. Smith, regista del documentario Sei vie per Santiago, in uscita in sala la settimana prossima, il prossimo giovedì 4 giugno. Lydia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, come mi hai detto prima, parlerò lentamente, visto che è un po' che sei fuori dall'Italia, e allora le domande devono essere chiare. Perfetto, grazie. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la storia di Sei vie per Santiago, Lydia. È la storia dei sei personaggi di diverse età, nazionalità, ragioni per fare il cammino, e anche religiosi, spirituali, e anche delle persone che lo fanno per lo sport. E così ognuno ha una ragione per fare il cammino e io seguo queste persone nel film. E quello che volevo fare è avere una buona rappresentazione delle persone che fanno il cammino, perché ci sono tantissime persone da 3 anni a 73 anni che abbiamo nel film, e di molti paesi, molta varietà. Senti, com'è nato questo disegno di documentario, questo progetto? Ah, quanto tempo abbiamo! È cominciato con il mio cammino. Io ho camminato come un pellegrino normale, senza pensare in fare un film, nell'anno 2008. E era un periodo un po' difficile per me. Io ero in tradizione di transizione, voglio dire, stavo senza lavoro, avevo fermato con il mio fidanzato e anche neanche avevo casa, così era un periodo un po' strano, e sono andata a fare il cammino perché c'era una voce interiore che mi ha detto un giorno: ah, deve fare il cammino. E come abitavo in Spagna 6 anni, sempre sapevo del cammino, così ho camminato. E poi, quando la gente sapeva che io facevo del film, mi dicevano: ah, deve fare un film sul cammino. Però io la verità non lo volevo fare, perché per me il cammino era così magico e così sacro che non sapevo se potevo riuscire a captare la verità del cammino. Mm-hmm. E anche perché fare un documentario indipendente senza un studio, una compagnia grande è molto difficile, così io non volevo fare questo film. Però quando sono arrivata a casa dopo fare il cammino, la stessa voce che mi chiamava a fare il cammino anche mi chiamava a fare questo film, e dopo 2 settimane di dire no, finalmente ho detto che sì, e qui siamo 7 anni dopo. Senti, intorno al sentiero di Santiago de Compostela sta crescendo sempre di più una grossa attenzione. C'è stato un film importante, c'è ora il tuo documentario, è diventato anche una meta turistica. Perché questo fascino? Secondo me ci sono due elementi fondanti della condizione umana. Il primo è quello del viaggio, dello spostamento, quindi della scoperta, e il secondo il confrontarsi con i propri limiti fisici. Fisici e anche mentale e spirituale. Sì, io credo, e credo che anche è una cosa così semplice, tornare a una vita semplice, che soltanto l'unica cosa che deve fare è camminare. Forse lavare i vestiti se vuoi, però neanche quello è necessario. Soltanto cammini, mangi e dormi. E io credo con la vita di tante persone è così frenetica e abbiamo tanto da fare, è così piacevole tornare quando a un modo di quando c'hai tempo di pensare, c'hai tempo di ascoltare a te stesso e c'hai tempo di comunicare, diciamo, con la natura e con Dio o qualsiasi cosa che per te è importante, però un po' di silenzio, credo. Senti, ecco Lidia, a partire dalla tua esperienza, dal tuo fare praticamente il percorso, il sentiero di Santiago, e il tuo incontrare tanta gente per il film che poi ha intervistato e seguito, ecco, tutto questo cosa ti ha portato? Qual è il risultato di questo tuo pellegrinaggio, chiamiamolo così? E che c'è un detto sul cammino che dicono: il cammino davvero comincia quando torni a casa. E che per me camminare il cammino di Santiago non è che era facile, però io sempre sapevo che arriverei a Santiago, che per me fisicamente non era troppo difficile, però il mio cammino davvero era fare questo film. Questo film era così difficile, però era così simile a camminare, perché quando uno cammina a Santiago ci vuole molto aiuto degli altri, e io facendo questo film era mille di persone che mi hanno aiutato con i soldi, con il tempo, la passera parola, e così per me il vero cammino era fare il film. Senti, allora esce la settimana prossima, il prossimo giovedì 4 giugno, e volevo chiederti se sai già con quante copie sarà in sala. Ancora non lo so esattamente, e io quello che faccio ora è sto facendo delle anteprime. Sono stata in Roma, Firenze ieri sera, e poi vado a Bologna, Faenza, Milano, Padova, Torino e Fossano. E tutto questo è delle anteprime, però nel Facebook di Cineama e anche da noi, The Camino Documentary, in quanto sappiamo dove sarà tutto lo mettiamo, però credo che ancora non sappiamo sicuro. E ci puoi lasciare dei riferimenti internet per saperne di più, per avere più notizie sul documentario? Il nostro è Camino Documentary, come in inglese, documentario, però documentary.org, quello in spagnolo, org. E poi anche nel Facebook è lo stesso, The Camino Documentary, e anche in Facebook è la pagina del nostro distributore Cineama. È lì dove mettono tutta la informazione di dove sarà tutto. Ok, allora io ti ringrazio Lidia, un in bocca al lupo per la prossima settimana, per l'uscita in Italia, e a risentirci presto. Grazie mille, buon cammino. Ciao, grazie anche a te. Ciao. Lydia B. Smith, regista del documentario Sei vie per Santiago, in uscita in sala giovedì prossimo 4 giugno. Per quanto riguarda visionari, tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. In collegamento con Cesare Fragnelli di Microcinema sulla distribuzione di un film che parla di uno straordinario viaggio, vero Cesare? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, uno straordinario viaggio in America con una magia visiva firmata da Janet. Allora, spieghiamo bene com'è il titolo per esteso a questo punto. Lo straordinario viaggio di T.S. Pivet. Al quale ho dedicato, pensa, la copertina della puntata di questa settimana, con il protagonista con in mano una grossa valigia che scende dal treno, una delle tappe del suo lungo viaggio, soprattutto ferroviario. Sì, anche un'immagine che ha fatto il giro del mondo, perché è una delle immagini licenziate dalla distribuzione internazionale, e anche da quell'immagine è facilmente intuibile la bellezza visiva del film e di quel background a cui ci ha abituato Janet con i suoi film. Esatto, Janet che in Italia è conosciuto soprattutto per un film che lo ha fatto esplodere a livello di pubblico. Sì, straordinario, favoloso, quella volta fu Il favoloso mondo di Amélie, e io ero un ragazzino e mi innamorai anche di questa dolce fanciulla. Senti, ecco, questo film, raccontacelo un po', soprattutto per chi ci ascolta e vuole essere incuriosito. Allora, non lo racconterò mai perché la gente andrà in sala a vederlo. Certo. Però dirò qualcosa che possa attirare qualcuno, magari più oltre il nome del regista, che ne è garanzia sicura di un buon film. Io credo che Janet abbia regalato al cinema internazionale un ritratto della famiglia diverso, e per la prima volta un film lo fa attraverso il racconto interno della famiglia di un ragazzo tredicenne, che è il punto, il fulcro di questo racconto, che man mano diventa semplicemente, ci renderemo conto che diventa semplicemente il mezzo che Janet ha utilizzato per raccontare invece un'idea di famiglia internazionale che può colpire, cioè che riguarda anche la nostra famiglia italiana, ma tutto il mondo ormai globalizzato, che ha dei cambiamenti e come le diversità oggi sia possibile farle convivere nello stesso nido domestico. E questa è la straordinarietà del film, perché è una famiglia con una madre che è una ricercatrice di insetti, una naturalista, invece un padre cowboy che tatua i cavalli, un po' più rude e meno ricercatore. Ma sono le diversità straordinarie invece che oggi è possibile mettere insieme in una famiglia felice, inseguendo dei sogni che sono sempre possibili. Senti Cesare, due sono gli elementi più accattivanti di questa sua cinematografia, a mio modo di vedere: una grande ricchezza ed eleganza dell'immagine e una sfrenata fantasia. E ci è beccato in pieno, perché una degli strati stampa più belli internazionali è proprio Una festa per gli occhi, che io ho amato molto, e l'abbiamo utilizzato anche come logline nel poster di lancio, perché realmente tutto il film è una festa per gli occhi. Sei lì in sala sul grande schermo e vedi qualcosa di esplosivo. Mm-hmm. E poi ovviamente, per chi conosce un po' Janet, oltre la sua scrittura visiva con la macchina da presa. Quello che ha sempre regalato sul cinema, al cinema, è questa fantasia senza limiti, cioè non è inchiodato nelle solite storie di narrazione che devono necessariamente rispondere a dei canoni per realizzare un buon film. Lui osa sempre nella fantasia e riesce a conquistare sempre un pubblico in maniera diversa. Mm-hmm. Quindi credo che la tua sia una lettura perfetta. Mm-hmm. Senti Cesare, come è avvenuto l'incontro con il vostro incontro con questo film e la scelta di portarlo in sala in Italia? Beh, devo essere onesto, come lo siamo sempre come Microcinema Distribuzione. Questo è un dono che arriva, perché i film così belli sono un dono. Al di là di quelli, se sarà un successo di box office, non lo sarà, di critica, mi interessa poco. Credo che questo è un film che rimarrà nella storia. Ed è un dono che in realtà non Microcinema Distribuzione non ha rubato al mercato, non ha ricercato, ma è un incontro fortunato con Fulvio, Federico Lucisano e Re Cinema, che dal festival, dopo averlo presentato al festival di Roma, in un incontro si è detto: diamo una forte possibilità a questo film. Quindi in realtà nasce dagli esclusivisti per l'Italia, che sono Fulvio, Federica e Re Cinema, ad aver acquistato prima degli altri questo film per il territorio d'Italia, e ci hanno dato a noi la possibilità di poterlo rappresentare sul mercato. Questa è l'estrema sincerità. Bene, in quante copie, Cesare? In 100 copie da stasera nei cinema. E tutti quelli che ci ascoltano, mi raccomando, se vi piace lo dovete dire a chiunque, se nel caso c'è, cioè, anche chi non gli piacerà, però farsi fatti propri in Italia è sempre una bella cosa. Cesare, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille di averci ospitato come al solito. Grazie. Ciao. Cesare Fragnelli di Microcinema sulla distribuzione del film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, in uscita in sala oggi giovedì 28 maggio. Ed eccoci arrivati a Gianfranco Cabiddu, regista del documentario Faber in Sardegna e l'ultimo concerto di Fabrizio De André, in uscita in sala per due giornate secche, quella di ieri e quella di oggi. Gianfranco, ben ritrovato a Visionari su Radio Andalusia. Salve, salve, ciao. Allora, due giorni con Fabrizio De André, raccontaci un po' di quest'idea. Beh sì, l'idea è nata un po' di tempo fa, ma soprattutto sulla base del materiale che io stesso avevo girato facendo parte del festival Time in Jazz, che è un festival di jazz che esiste da 27 anni, condotto da Paolo Fresu. E negli anni dal 2005 al 2011 abbiamo fatto un omaggio a Fabrizio De André, che è a casa sua, praticamente a Lagnata, dall'altra parte della montagna rispetto a Berchida, facendo una serie di concerti unplugged ogni anno con un artista diverso, da Ornella Vanoni a Morgan a Cristiano De André, ma anche molti musicisti jazz come Danilo Rea, lo stesso Fresu, Rita Marco Tulli. E quindi nel corso degli anni io ho girato tutti questi concerti, ma era da tempo che ragionavo un po' da sardo e da regista sardo su cosa voleva dire un po' sulla presenza di Fabrizio De André per 28 anni in Sardegna, qual era stato il suo lavoro soprattutto come imprenditore, perché lui non aveva una casa di vacanze ma aveva proprio un'azienda, aveva messo su un'azienda di allevamento, per cui qual era stata la sua storia, quali erano i paesaggi che vedeva ogni giorno, che cosa l'aveva in qualche modo affascinato fino al punto da farsi proprio sardo, imparandone la lingua, imparandone i suoni e traducendoli anche dentro la sua il suo lavoro artistico. Sì. Gianfranco, un luogo isolato da tutto, molto verde e rigoglioso. Sì, un luogo bello, come molto bella la Gallura, ma un luogo che lui ha anche molto trasformato, come nel documentario appunto racconta Renzo Piano, nel senso che ha costruito un lago naturale, ha piantato delle essenze che lì erano sconosciute, quindi ha agito dentro la natura, dentro il luogo, non l'ha solo contemplata, l'ha lavorata. infatti ha un senso proprio la copertina, il manifesto del film, dove si vede proprio lui con l'immancabile sigaretta e le mani sporche di fango, perché ce le metteva le mani sulla terra, ecco. Senti Gianfranco, ecco, ha avuto questo tipo di rapporto con la terra e l'ha trasformata, e con la gente, con il popolo sardo, com'è stato il rapporto? È un po' quello, racconta il documentario, proprio sì. Intervistando, e quindi ci sono le testimonianze di tante persone che vivono il quotidiano con lui, molto oltre il discorso dell'artista, quindi proprio il suo fattore, la persona che lavorava, diciamo, con lui a contatto ogni giorno, per cui tutto questo, credo, come dice Dori nel documentario, che è poi un po' l'anima del film, perché in sostanza è una grande storia d'amore legata a quel luogo. Loro erano veramente molto giovani quando sono venuti a stare in Sardegna. Qui in Sardegna è nata Luvi, insomma hanno tantissimo vissuto questo luogo qua, e come dice Luvi, probabilmente la Sardegna gli ha dato anche voglia di ricominciare a comporre. Qui in Sardegna forse lui ha fatto un po' le cose migliori, che sono tutta la produzione che va dall'indiano in poi, vivendo lì e nutrendosi anche dei suoni, e soprattutto, come si capisce nel documentario, imparandone molto la lingua, per cui sono anche molte le canzoni che lui fa decisamente in sardo, insomma. Senti, quest'idea di unire la sua presenza in Sardegna con anche l'ultimo concerto da Fabrizio tenuto? Dunque, questa è stata un'idea della distribuzione Microcinema, un po' perché il documentario dura un'ora, un po' perché effettivamente alla visione del documentario acquisce un po' la nostalgia di Fabrizio De André, che nel documentario è sempre visto un po' di sponda, cioè si raccontano un po', è raccontato più da altri, visto nelle immagini del repertorio, per cui rimaneva un po' il desiderio di sentirlo e di vederlo suonare, e il film che testimonia il suo ultimo concerto è veramente l'ultimo lascito, diciamo, di presenza, ecco, sul palco a fianco ai figli, dove veramente è un concerto meraviglioso, per cui l'idea è proprio quella, a quel punto, di donarsi nuovamente come Fabrizio De André musicista. Gianfranco, ecco, a te come sardo e come amante della musica e anche della figura di Fabrizio De André, cosa rappresenta questa figura? Ma da ragazzo, come penso tantissimi, ho imparato un po' a suonare la chitarra, a strimpellare sulle sue canzoni, poi io ho studiato musica, la musica è veramente il mio, come dire, la mia passione. E ho intrecciato in maniera assolutamente casuale dei fili, perché il mio primo film di Disamistad era musicato da Nicola Piovani, e Nicola Piovani ha lavorato con Fabrizio De André. Poi da 8 anni, 9 anni, quest'anno faccio una sorta di appuntamento, un festival, se lo si può chiamare così, in Sardegna, che riflette proprio a Carloforte sui rapporti tra la musica e il cinema, e avendolo ambientato a Carloforte, perché il festival fa parte del circuito delle isole del cinema, che sono le 4 isole minori della Sardegna, e ognuno di noi si è dato un tema, il mio è la musica nel cinema, e Carloforte in Sardegna è un'enclave di genovesi, dove lo stesso De André è stato, perché parlano ancora un genovese mischiato all'arabo di Tabarca, e l'ho intitolato proprio Crosa de Ma, per cui erano tanti fili, diciamo, un po' personali che mi legavano alla figura di Fabrizio De André. E poi una sorta di gratitudine da sardo, perché lui ha subito il peggio che può dare la Sardegna col sequestro, e nonostante questo ha scelto di stare ancora qui, non ha mai avuto l'idea di andarsene nonostante. Quindi credo che in questo periodo in cui si parla tanto di identità, l'identità di una persona che sceglie di abbracciare una cultura conoscendola e studiandola sia molto più forte di uno che semplicemente nasce in un posto anziché in un altro. Gianfranco, visto che sei coinvolto anche da questo festival di cui ci occupiamo anche come trasmissione, volevo chiederti, ecco, il rapporto oggi tra la Sardegna e il cinema, gli autori sardi, com'è lo stato delle cose? Ma sempre come un po' in Italia, è sempre altalenante. Ci sono dei talenti e sono anche tanti e anche di valore, sia giovani sia un pochino meno giovani. Non è facile, come non è facile da nessuna parte. È nata una film commission che sta muovendo i primi passi e qualcosa si vede all'orizzonte, manca ancora proprio una chiarezza di direzione, ecco, come c'è stata in Puglia, e ci auguriamo che fra poco capiti anche qui, al di là della burocrazia, perché le storie sono tante, insomma, che si possono raccontare. La Sardegna è interessante proprio dal punto di vista di ambientazione di tante storie, ma anche per gli autori che c'ha, sia musicali che appunto anche nell'ambito del cinema. Oramai sono abbastanza i film che sono usciti in Sardegna già quest'anno. Io ne ho girato uno lo scorso anno, che adesso è appena ultimato, all'Isola dell'Asinara, e Enrico Paone ha girato uno a Cagliari, quindi insomma comunque ci stiamo provando. Bene, allora ricordiamo il tuo documentario Faber in Sardegna, e l'ultimo concerto di Fabrizio De André, che era in sala ieri e lo sarà ancora tutto oggi. Gianfranco, ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? Per il documentario su Fabrizio De André, sì, direi di andare sul sito microcinema.it, che è aggiornato e segue passo passo il destino. Bene. Allora ci sentiamo presto, un abbraccio Gianfranco. Ti ringrazio, arrivederci. Ciao. Gianfranco Cabiddu, regista del documentario Faber in Sardegna, è l'ultimo concerto di Fabrizio De André. E con lui chiudiamo la puntata settimanale di Visionari, dandovi appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutti i riferimenti li trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.